e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Voglia di fumare un'altra sigaretta. Allora, attivo o passivo, il fumo è un fattore di rischio per il diabete di tipo 2. Noi oggi partiamo da qui perché la notizia che la ricerca ci offre su un piatto d'argento per parlare di prevenzione, di quella che è considerata una vera e propria epidemia, il diabete. Allora, fumate, vivete accanto a un fumatore, restate con noi, 800 24 00 24. Chiamateci anche per raccontarci i valori della vostra glicemia, se l'avete controllata di recente, non scappate se siete sovrappeso, sedentari, avete superato gli ANTA, se avete dei casi di diabete in famiglia, beh, insomma, praticamente vi vogliamo tutti qui con noi a Cuore Denari. Io ci sono, la terza caratteristica, se ti interessa. Un sovrappeso non mi pare, sedentaria neanche, gli ANTA li abbiamo superati da un po'. Per la pagina di Denari, cosa ti propongo stamattina, Nicoletta? Allora, torniamo a prendere le misure nel rapporto con la banca. Ieri mattina, lo ricorderete, ad un certo punto la giornata finanziaria italiana è stata movimentata da questa notizia. L'apertura da parte della Procura di Vicenza di un fascicolo nei confronti di alcuni esponenti di vertice della Banca Popolare di Vicenza in relazione ad ipotesi di reato di agiotaggio e ostacolo alle funzioni di vigilanza, reati che sarebbero stati commessi già dal dicembre del 2014. Allora, questa notizia ci ha dato il pretesto per tornare a parlare della delicata situazione di questi correntisti, o ancora più delicata situazione degli azionisti di questa banca, non solo di questa ma anche di quelli di Veneto Banca, due casi dei quali avevamo parlato mesi addietro. Avevamo fatto un paio di puntate. Mi ricordo. E allora noi rinfreschiamo la memoria, ahimè, anche se non è necessario per chi è incappato in queste vicende, ai nostri ascoltatori. 800 24 00 24. Cercheremo di capire cosa sta succedendo, come comportarsi, quali ragionamenti fare quando sentiamo notizie di questo tipo che riguardano la nostra banca o la banca alla quale abbiamo affidato i nostri risparmi. Sigarette la mattina, la la la la. Tra l'altro il dottor Boffi, ti ricordi, proprio di recente ci raccontava che chi si accende la sigaretta subito al mattino è veramente dipendenza. Comunque, attivo o passivo, il fumo si aggiunge all'elenco dei fattori di rischio dell'insorgenza del diabete che la ricerca ormai bene individuato. Quali altri conoscete oltre al fumo? 800 24 00 24, ditecene almeno, cosa dici, due o tre, un Deborah? Paio, va bene, cominciamo sul facile per poi andare ovviamente. Allora, noi partiamo da questa ricerca che è stata pubblicata proprio di recente, quindi ci dà lo spunto per tornare a parlare di prevenzione di diabete. In linea con noi abbiamo il dottor Federico Bertuzzi, diabetologo all'ospedale Niguarda Cagranda di Milano. Buongiorno dottore. Buongiorno. Benvenuto. Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, chi fuma o chi vive accanto a un fumatore e quindi è esposto al fumo passivo rischia grosso. Ne abbiamo parlato tante volte recentemente anche dottor Bertuzzi in occasione della campagna antitabagismo lanciata dal ministro Lorenzin, e oggi vorrei parlare di una relazione, perché non è ancora stata dimostrata un'associazione di tipo causa-effetto tra fumo e rischi di sviluppare il diabete. L'analisi è stata pubblicata su una rivista molto prestigiosa e ha portato i suoi autori a stimare che rispetto a chi non ha mai acceso una sigaretta, i fumatori corrono un rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 in media superiore del 37%. In particolare, hanno fatto poi anche un distinguo tra forti fumatori che hanno a che fare con un aumento del rischio pari al 57%, fumatori moderati e leggeri che lo vedono aumentare naturalmente a un pochino meno, tra il 34 e il 21. Anche il fumo passivo aumenta il rischio di diabete, che in questo caso è superiore del 22% rispetto a quello corso dai non fumatori. Dottor Bertuzzi, meglio smettere, e io smetto anche di dare dei dati che lasciano un po' il tempo che trovano, perché il messaggio di questa ricerca è molto chiaro, ma ci aiuti a capire questa diabolica relazione, quindi tra fumo e insorgenza di diabete, e quindi evidentemente penso che il fumo danneggi molto anche le persone affette da diabete. È così, infatti, il fumo è responsabile non solo di patologie respiratorie e non solo provoca tumori, soprattutto a livello del polmone, ma è anche responsabile di patologie cardiovascolari. Mm-hmm. Pertanto, quindi, se un paziente che è affetto da diabete e che quindi è già a rischio di patologie cardiovascolari comincia a fumare, aumenta in modo drammatico il proprio rischio di sviluppare problemi cardiovascolari, ictus, arteriopatia obliterante agli arti inferiori, quindi la sua condizione clinica si aggrava moltissimo. Se poi esiste anche una relazione tra insorgenza di diabete e fumo, si innesca insomma un circolo vizioso in cui comunque la relazione tra diabete e fumo diventa veramente un grosso problema per la nostra salute. Ecco, io poi vorrei sottolineare un aspetto. Il fumo, lo ricordiamo sempre, ma riduce sensibilmente l'efficacia delle terapie. Questo vale anche per il diabete, non è così, dottor Bertuzzi? Il fumo riduce la sensibilità all'insulina e quindi in qualche modo viene ad ostacolare l'effetto che hanno i farmaci per controllare le glicemie nei pazienti affetti da diabete mellito. Il fumo poi, diciamo, viene ad annullare anche l'effetto positivo che alcuni farmaci vengono assunti dal paziente proprio per proteggere le arterie. Quindi il fumo annulla l'effetto dei farmaci che noi assumiamo per proteggere il nostro organismo. 800 24 00 24 per parlare e ripassare anche con noi le regole di prevenzione ed evitare il diabete. Diabete? No grazie. Questo è lo slogan della puntata di oggi per la parte di cuore, però provate anche voi naturalmente a suggerirci altri slogan efficaci. Perché diciamo no grazie? Perché noi sappiamo che lo stile di vita sano è sempre stato riconosciuto come un cardine della salute. Gli studi scientifici lo dimostrano e hanno validato questa tesi, soprattutto per la cura del diabete e di altre malattie metaboliche e croniche. Tuttavia, in modo specifico, proprio per il diabete, pensate, è stato osservato che un'alimentazione controllata e di qualità, ne parleremo, insieme all'attività fisica, sono in grado di ridurre l'insorgenza di questa patologia nel 66% dei soggetti a rischio, contro l'utilizzo dei farmaci che la riduce solo nel 33% dei soggetti predisposti. Allora, questo mi sembra che sia un dato molto interessante, dottor Bertuzzi, da sottolineare ed evidenziare, no? Bene bene, perché 66% contro il 33% dei farmaci la dice lunga. La migliore strategia per ridurre il rischio di sviluppare diabete nei soggetti a rischio è proprio un corretto stile di vita. Non ci sono farmaci che sono più efficaci di un corretto stile di vita. In pratica, quali sono le indicazioni che gli studi hanno suggerito? Quello di evitare un sovrappeso e, in caso di sovrappeso obesità, ridurre il proprio peso del 5%. E svolgere un'attività fisica regolare. In genere noi consigliamo ai pazienti tipo un 20-25 minuti al giorno o comunque un totale di 150 minuti alla settimana di esercizio fisico aerobico, cioè che prevede attività muscolare ripetuta, tipo la bicicletta, la corsa su tapirulan o canottaggio o anche magari il ballo, ecco perché no. Comunque diventa questo la soluzione migliore per prevenire. E devo dire che anche nei pazienti che hanno già il diabete, l'adozione di un corretto stile di vita tante volte determina anche una remissione della terapia. Ci sono dei pazienti che prendono dei farmaci ipoglicemizzanti, perdono peso e togliamo poi, riusciamo a togliere i farmaci che avevamo prescritto loro precedentemente. Allora, indicazioni oggi per tenere sotto controllo la glicemia. Qual è l'ultima volta che l'avete misurata? Che valori avete? Diteci anche se conoscete almeno un paio di fattori di rischio oltre al fumo che possono favorire l'insorgenza del diabete. Parliamo naturalmente del diabete di tipo 2, che un tempo era considerato una patologia dell'età adulta, ma che drammaticamente sta diventando una malattia sempre più giovane. È di questi giorni, se l'avete sicuramente letta, la notizia di una bimba texana di 3 anni alla quale è stata riscontrata una diagnosi molto pesante, proprio il diabete di tipo 2. La bambina, il suo caso è stato sottoposto proprio al convegno dell'Associazione Europea per lo Studio del Diabete di Stoccolma, pesava 35 kg e aveva perennemente sete e bisogno di fare pipì. Quindi, dottor Bertuzzi, non è più solo una malattia degli adulti, ma interessa anche i bambini. Il caso che abbiamo citato è un caso veramente, insomma, è finito addirittura in un convegno, ma sicuramente ci dice che il sovrappeso è molto importante e diventa un fattore di rischio anche per i bambini. Fortunatamente in Italia i casi di diabete mellito di tipo 2 nell'infanzia sono rari ancora, mentre invece questa tendenza è in aumento soprattutto negli Stati Uniti, in particolare modo nelle minoranze etniche. Però è chiaro che con l'aumento dell'obesità nei nostri bambini, questo rischio di diabete mellito sta aumentando anche in Italia. soprattutto quindi nei bambini che hanno familiarità, che hanno in famiglia dei parenti con la malattia, con diabete mellito di tipo 2, o che magari appunto già in alcuni casi in età molto precoce cominciano a sviluppare dei segni magari di insulinoresistenza, tipo la acantosis nigris, una colorazione diciamo nerastra in alcune parti del corpo, o tante volte un aumento della pressione. Quindi comunque il rischio di diabete mellito di tipo 2 è in aumento anche in Italia. E anche nei bambini, ma anche negli adolescenti. Ma ci sono dei segnali, bisogna misurare la glicemia, ne parleremo come, quando, perché, ma che valori deve avere. Ma ci sono dei sintomi che devono in qualche modo insospettire e invitarci a parlarne con il proprio medico. La sete è un segnale preciso? Il bisogno di fare spesso pipì, possiamo considerarle come dei segnali? Sono molto importanti, si bere molto e urinare spesso, soprattutto magari quando il paziente comincia ad alzarsi di notte. Questi sono due segni che veramente devono mettere in allerta il paziente. Tante volte anche la perdita di peso che non viene giustificata in altro modo, o qualche volta delle infezioni che si ripetono nel tempo, delle cistiti ricorrenti per esempio, anche se devo dire che in genere spesso l'esordio è in maniera asintomatica, cioè il paziente non si accorge di questo rialzo progressivo delle glicemie. C'è un'età negli adulti più a rischio? Ma sopra i 40-45 anni, se il paziente ha familiarità, se il paziente è iperteso ed è in sovrappeso obeso, vanno fatti dei controlli, vanno cominciati i controlli per vedere se appunto ha una forma di diabete magari latente, un diabete non diagnosticato, perché questo ricordo che è una condizione molto diffusa, circa uno su tre pazienti ha diabete e non sa di averlo, e quindi la ricerca dei pazienti con questa patologia va proprio fatta con attenzione, soprattutto nei soggetti a rischio. 800 24 00 24, il dottor Bertuzzi vi ha già dato tutto un elenco dei fattori di rischio, voi prendetene due, prendete mano alla cornetta 800 24 00 24 e raccontateci almeno due fattori di rischio per l'insorgenza del diabete, oltre al fumo di cui abbiamo parlato in apertura. Noi vi aspettiamo, intanto andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, e vi aspettiamo qui, a tra poco. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Cuore e Denari. E noi torniamo a parlare di prevenzione del diabete, lo stiamo facendo con il dottor Federico Bertuzzi, diabetologo all'ospedale Niguarda Cagranda di Milano. Dottor Bertuzzi, si può essere diabetici senza saperlo e arrivare quindi tardi alla diagnosi? Questo è un problema molto serio, perché c'è un sommerso che rischia grosso, eppure basta poco per fare diagnosi ed evitare che la malattia lavori ed eroda il nostro capitale salute senza che noi facciamo nulla per metterlo al riparo. Dottor Bertuzzi. È vero, questo è un grosso problema. Il paziente non sa di avere il diabete, non fa degli accertamenti e piano piano le iperglicemie portano alla progressione, all'insorgenza di complicanze croniche, tipo problemi per esempio soprattutto cardiovascolari, un danno a livello renale, per cui il paziente talvolta si presenta dal medico per accertamenti per le complicanze avute, e nel corso degli accertamenti per un infarto, per un ictus, per un'insufficienza renale, si scopre che il paziente aveva diabete magari da tanti anni. Ecco, quindi si rischia molto. Ti è piaciuto Roda il capitale? Sai che mi sono trovata in questo linguaggio familiare per me. E si rischia molto, si rischia seriamente la salute, quando basterebbe un aggiustamento dello stile di vita, quindi una dieta di cui tra poco parliamo, e attività fisica per riportare la glicemia ai valori ottimali e quindi evitare tutte quelle complicanze che il diabete poi comporta. Dottor Bertuzzi. Certo, il parametro secondo me su cui bisogna stare attenti è proprio il peso corporeo, perché l'incremento del peso corporeo è tante volte il fattore che poi scatena l'iperglicemia, per cui dieta ed esercizio fisico sono fondamentali. Il parametro che noi possiamo controllare e che ci permette di capire il reale rischio poi per il diabete è quello di tenere sotto controllo il peso corporeo. A Allora, dall'erosione del capitale, e parleremo anche di questo più tardi, dei correntisti della Popolare di Vicenza e di altro che lo hanno visto erodere effettivamente, ritorniamo invece appunto sul tema diabete con le domande dei nostri ascoltatori. Sono pronti, Nicoletta? Guarda, tantissimi. Hermes da Brescia, Fabio da Milano, Teresa da Milano. Cominciamo con Hermes, che si è candidato per primo questa mattina. Hermes, buongiorno. Ah, buongiorno. Buongiorno anche a voi. Ci dica. Grazie Hermes, ci dica. Allora, io ho diabete mellito 2 e non sono sovrappeso come avete accennato voi, però ho avuto la coronaria destra che casualmente ho scoperto che era chiusa al 100%, me l'hanno riaperta. Sì. E io penso, volevo chiedervi la due cose, un po' per la vista e dopo un po' anche per le vene, perché mi hanno detto che ho le vene non tanto in ordine, un po' strette, cioè con il calcare. Cioè quindi con il calcare, allora meno. Sì, ma non è proprio calcare, ma grazie Hermes, perché questa idea rende, no, sì, questa immagine rende bene l'idea. Hermes, dottor Bertuzzi ci dà l'opportunità, chiede quali possono essere le complicanze del diabete, no? Il diabete non controllato può avere delle complicanze serie, sappiamo, no, che può danneggiare la vista, certo, e a rischio, certo, anche la circolazione, c'è il piede diabetico su cui, sì, i medici, no, fanno tanta attenzione. Certo, è vero quello che ha detto il paziente, è importante che comunque ci sono alcune forme di diabete mellito di tipo 2 che insorgono in pazienti normopeso, sì, perché questo è da segnalare. Ci sono infatti alcuni pazienti che hanno un particolare tipo di diabete mellito con una componente autoimmune, cioè in cui ci sono degli anticorpi che vanno a danneggiare il pancreas e comunque sono responsabili del diabete, indipendentemente dal peso. Ed è questa è una patologia che riguarda i bambini, ma sempre di più sono stati osservati dei casi anche negli adulti. Quindi il peso elevato, fuori controllo, è sicuramente un fattore di rischio, però il controllo della glicemia va fatto soprattutto nei pazienti che hanno dei problemi, per esempio, di tipo cardiovascolare. Cardiovascolare, ho parlato di cuore, di ictus, ma anche la circolazione periferica, sì, problemi di arterie spessite, magari con calcificazioni agli arti inferiori. Il consiglio, per poi passare a Teresa? Il consiglio è quello di fare controlli periodici in modo tale che anche eventuali lesioni agli occhi, alle arterie, vengano individuate e gestite in maniera precoce, il più presto possibile, per evitare che progrediscano poi verso complicanze severe tipo le ulcere agli arti inferiori, tipo il piedidiabete o addirittura negli occhi la perdita del visus. 800 24 00 24, aspettiamo le vostre chiamate per regalarvi un libro della libreria di Cuore Denari. Che cosa dovete fare? Dovete, tra i tantissimi fattori di rischio che il dottor Bertuzzi vi ha snocciolato e indicato, sceglierne due e chiamare il nostro numero verde e segnalarceli, e porterete a casa, anzi riceverete a casa un libro. Prima di dare la parola a Teresa, vorrei leggere al dottor Bertuzzi il messaggio di Chiara, che è un messaggio che interessa tutte le donne che stanno, le giovani donne, 44 anni, normopeso, diabete, gravidico alla terza gravidanza, dottor Bertuzzi, borderline alla seconda, genitori ipertesi, però non ha casi di diabete in famiglia, ma ci scrive se ci sono dei rischi. L'ho letta perché questa indicazione che Chiara ci dà, il diabete gravidico, porta il dottor Bertuzzi sicuramente a darci un'informazione in più e anche una raccomandazione. Dottor Bertuzzi. Le donne che sviluppano diabete in gravidanza hanno un grossissimo rischio di sviluppare poi diabete di tipo 2 con il passare degli anni, per cui di nuovo una raccomandazione al controllo del peso corporeo. Le donne che arrivano in genere che sviluppano diabete gravidico sono in genere donne che comunque sono in leggero sovrappeso o comunque hanno una forte familiarità per il diabete di tipo 2. Oggi il diabete durante la gravidanza si riesce a gestire molto bene. Però di nuovo va fatto un intervento mirato e soprattutto, certo, poi un'attenzione che non degeneri in tipo 2. Di questo parleremo, e soprattutto della dieta, zuccheri, quanti, come, perché, carboidrati, grassi, fibre. 800 24 00 24 il nostro GR, poi di nuovo insieme. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. Cuore e denari. Io vado in banca, stipendio fisso, così mi piazzo e non se ne parla più. Invece noi dobbiamo ritornare a parlarne di alcuni casi. Allora, intanto ci ha incuriosito quello che è accaduto ieri, la notizia che riguarda la Banca Popolare di Vicenza, nei confronti della quale la Procura vicentina ha aperto un fascicolo nei confronti di alcuni esponenti di vertice, fra cui il presidente Zonin. Ci sono le ipotesi di reato di aggiotaggio, ostacolo alle funzioni di vigilanza, caso del quale abbiamo parlato anche nei mesi passati insieme a quello di Veneto Banca. Sono banche al centro del processo di trasformazione in SPA, come chiesto da un decreto varato in febbraio dal governo. Ma la novità di ieri che cosa implica per i correntisti, ma soprattutto per gli azionisti ed obbligazionisti di questa banca? A cosa dobbiamo fare attenzione se sentiamo o sentiremo ancora notizie di questo tipo sulla nostra banca? Speriamo di no in futuro, speriamo che questo caso sia assolutamente circoscritto. Intanto, per tutte le vostre domande che ci state già inoltrando all'800 24 00 24, il numero verde continua ad essere a vostra disposizione. Scusi, mi ordiniamo le 5 polpette? Io 5 gliele ho date. Apri la bocca! T'ho detto, apri la bocca! Apri la bocca! Ah, che schifo, chiudi! C'è il colesterolo! Dottor Bertuzzi, ma cosa c'entra il colesterolo con il diabete? Il colesterolo è un fattore di rischio per lo sviluppo di patologie cardiovascolari, dell'aterosclerosi. Si accumula nelle arterie e quindi l'assunzione di colesterolo va limitata nel paziente con diabete mellito. 800 24 00 24, possiamo considerarlo, inserirlo nell'elenco dei fattori di rischio, quindi? Certo, il colesterolo, che è contenuto prevalentemente, negli alimenti di origine animale, quindi va limitato insieme ai grassi saturi. Parleremo tra pochissimo di dieta, ma prima le domande dei nostri ascoltatori che sono in linea con noi. Dottor Bertuzzi, rapidamente diamo i valori ottimali. La glicemia, parliamo della glicemia a digiuno, e anche se mi piacerebbe con lei commentare la notizia di qualche mese fa, i titoli del giornale riportavano test che predice il rischio di diabete fino a 5 anni dalla sua scomparsa. Allora, ci spieghi un po' come dobbiamo misurare la nostra glicemia? C'è questo nuovo test che permette di fare una previsione a lungo termine, o vale la glicemia a digiuno, e che valori deve avere la glicemia? Allora, per la glicemia a digiuno deve essere inferiore uguale a 126, confermata in due misurazioni, oppure una sola misurazione della glicemia al di sopra di 200 è indicativa di diabete mellito. Esiste poi la possibilità di fare il test a carico di glucosio, che nei soggetti predisposti permette di evidenziare quei pazienti con diabete mellito in cui la glicemia a digiuno è risultata nella norma. Lo studio italiano, molto elegante, ha individuato un parametro aggiuntivo che si calcola sempre tramite la curva da carico di glucosio, che permetterà di trovare, di individuare altri pazienti affetti da diabete mellito che sfuggivano alla diagnosi con i precedenti test. Quindi è uno studio molto importante. Quindi i ricercati adesso vengono individuati. Direi proprio di sì. Allora, abbiamo Simona da Ferrara che si candida per la risposta al nostro quizzettone. Brava Simona. Buongiorno. Buongiorno Simona. Cosa non farebbero per non avere i nostri libri? E fanno bene. Perché sono dei libri molto belli. Molto utili. Ci dica Simona. Allora, familiarità, sedentarietà. Sì. E alimentazione in quanto colesterolo e trigliceridi. Dottor Bertuzzi, si tolga il camice e faccia il giudice. È giusto? Direi che siamo sulla buona strada, sull'alimentazione integrerei alcune informazioni. Però abbiamo invitato il dottor Bertuzzi apposta e quindi integrerà lui con rapidamente ma in modo molto incisivo, quindi Simona può ricevere a casa un libro, Cuore sì, Denari. Certo. Entrambi naturalmente. Due libri a Simona, dottor Bertuzzi, zuccheri, fibre. Non abbiamo tanto tempo per approfondire questo aspetto, ci dia la di una dieta che aiuta a prevenire il diabete, ma è una dieta che possono seguire anche i soggetti che già hanno ricevuto diagnosi, perché lei ha sottolineato che ritornare ad uno stile di vita corretto può aiutare a anche abbandonare poi i farmaci, perché si riduce poi la glicemia e quindi il peso corporeo, il peso corporeo. Dottor Bertuzzi, allora che cosa facciamo? In breve potrei dire un'alimentazione bilanciata, ricca di fibre, quindi provenienti da ortaggi, frutta e cereali non raffinati, quindi integrali, povera in zuccheri semplici e povera in grassi di origine animale, quindi insomma un po' la dieta mediterranea. Quando lei parla di frutta, così rispondiamo a tutte le nostre domande dei nostri ascoltatori, la persona con una glicemia borderline o la persona già con una diagnosi di diabete può mangiare la frutta, deve evitare alcuni tipi di frutta, ad esempio l'uva, frutta di stagione, la mangiamo o no? Io direi banana, fiche e cachi devono essere evitati. E invece c'è uno studio molto bello, brevemente, due porzioni alla settimana di mele, uve e mirtilli riducono del 23% il rischio di sviluppare diabete, confrontato con un paziente che mangia la stessa frutta una volta al mese. Abbiamo sdoganato l'uva, quindi. Fantastico. Allora... L'uva in realtà sì, è a zuccherina, però ha degli antiossidanti che sono importanti, quindi in qualche modo l'uva è stata rivalutata nell'ultimo periodo. Quindi la ricetta per prevenire il diabete a tavola la trovate anche naturalmente sulle pagine di Cuore Denari, perché su questa, dottor Bertuzzi, noi facciamo un bel taglietto, sì. Mettiamo il titolino e invitiamo i nostri ascoltatori naturalmente ad andare a sentire, a leggere, a cliccare, così noi via saliamo, libera l'uva, saliamo, come lo intitoliamo. ci pensiamo, iniziate a pensare anche al titolo. Dottor Bertuzzi, grazie per essere stato con noi. Grazie. Anche la cannella, vero, aiuta? Anche la cannella, sì. Può essere un aiuto, insaporisce, evitare i succhi di frutta, parliamo di frutta fresca, non di succhi di frutta, che aumentano il rischio del 20% di sviluppare il diabete. Grazie dottor Bertuzzi, allora noi andiamo senza succhi di frutta ma con la frutta vera. Buona giornata. Buona giornata, grazie. A voi. Arrivederci a tutti. Noi tra l'altro volevo anche dire a Stefano da Milano e Michele dalla provincia di Campobasso, che non siamo riusciti a sentire, che possono scriverci, perché naturalmente poi nel pomeriggio come sempre gli noi risponderemo di non rispondiamo denari. Io e Deborah, state tranquilli, assolutamente. Giriamo le vostre domande ai nostri ospiti. Esperti. Noi adesso siamo uscite dall'ambulatorio del professor Bertuzzi e entriamo negli studi, invece negli uffici di Nicola Borzi del Sole 24 Ore, che salutiamo. Buongiorno. Ciao Nicola, ma saluto anche Marco Ferrando del Sole 24 Ore, collegato telefonicamente con noi. Marco, benvenuto, ciao. Marco, ci senti? Non ci sente, lo recuperiamo immediatamente telefonicamente. Allora, abbiamo già anticipato nel corso della prima parte della trasmissione il tema di denari che avremmo approfondito questa mattina. C'è un'altra inchiesta, come scrive anche un'altra brillante collega del Sole 24 Ore questa mattina, che scuote il mondo bancario. Nel mirino è finita la Banca Popolare di Vicenza, una di quelle banche, ricorda Sara, legate al territorio, ma che poi per gli inquirenti che hanno aperto questo fascicolo di inchiesta hanno usato i privilegi societari garantiti dalla legge per aggirare le regole patrimoniali e assicurare posizioni apicali ai vertici. Detto questo, noi oggi cercheremo di capire intanto cosa è successo ieri con l'apertura di questo fascicolo d'inchiesta, ma questa inchiesta si apre per, raccontano i giornali questa mattina, tutta una serie di denunce fatte nei mesi passati da alcune associazioni dei consumatori. Per la verità plus 24 del Sole 24 Ore, forse Nicola era partito ben prima di Adusbef e compagnia cantante. Rifacciamo un po' un punto della situazione, comincia a chiederla a te intanto che recuperiamo Marco, che adesso abbiamo riagganciato, però è andiamo stato a fare un riepilogo della situazione. Allora cosa è successo alla Popolare di Vicenza? Allora, io partirei da una lettera agli azionisti che il presidente della Popolare di Vicenza, Gianni Zonin, scrisse nel settembre del 2011 per commentare la semestrale. In quella lettera Zonin diceva sostanzialmente: avete visto che abbiamo fatto bene a non quotarci in borsa? Mentre tutti i titoli del settore bancario crollano, il nostro valore, 62,5 euro per azione, rimane inattaccato. Abbiamo così conservato il valore degli azionisti, abbiamo dimostrato la nostra solidarietà e siamo come la Svizzera, cioè un'entità piccola ma di grande valore. Che cosa succede? Succede che la Popolare di Vicenza, come scrive Plus 24 da anni, è una banca popolare del territorio che ha due caratteristiche. La prima è di essere una banca non quotata. Questo significa che il valore dell'azione non viene determinato dagli scambi di borsa, certo, sul mercato, e quindi può salire o scendere in funzione delle notizie giornaliere, dell'andamento dei conti o delle operazioni straordinarie, ma viene definito una volta per tutte l'anno dall'assemblea degli azionisti su proposta del consiglio d'amministrazione, che fissa questo valore tramite una perizia di stima che viene affidata a terzi indipendenti. Ovviamente negli anni tutto questo sistema non ha fatto che crescere, nel senso che di anno in anno il valore del titolo della Popolare di Vicenza è aumentato fino ad arrivare, come abbiamo detto, nel 2011 a 62,5 euro per azione, mentre tutti gli altri titoli del settore bancario registravano prima la crisi dei subprime e poi la crisi dell'economia reale, quindi flettevano, cadevano. Dopodiché è arrivata la Banca Centrale Europea, che ha cominciato ad alzare un po' le asticelle e a chiedere dei requisiti patrimoniali più severi a tutte le banche, perché nasceva la vigilanza bancaria europea per tutta una serie di motivazioni. A ottobre dell'anno scorso vengono effettuati gli esami universitari europei, gli stress test dei quali abbiamo tanto parlato. Esatto, comprehensive assessment, salta fuori che la Popolare di Vicenza in realtà, nonostante tutte le operazioni fatte negli anni precedenti, 1,5 miliardi di euro tra azioni e obbligazioni emesse per rafforzare il capitale, è ancora in deficit di capitale. E quindi a ottobre dell'anno scorso cosa succede? A dicembre, in realtà poi dell'anno scorso, vengono resi noti i risultati. La Banca Popolare di Vicenza è chiamata a svalutare il titolo e a rettificarlo in funzione di questa diminuzione del patrimonio, perché essendo l'azione una divisione tra il valore del patrimonio, il valore dell'azione e il numero delle azioni che ci sono in circolazione, il titolo vale di meno. A febbraio quest'anno l'azione viene portata in assemblea e si decide di svalutarla di quasi il 23%, e il grande meccanismo di redistribuzione sul territorio di valore, che è durato per anni e al quale tutti hanno attinto, anche coloro che oggi si svegliano e dicono ci stiamo perdendo, entra in crisi, perché questa grande crescita che continua insostenibile secondo la nostra valutazione, secondo altri osservatori, da anni. Il titolo si era rivalutato di circa 30 volte in 10 anni secondo alcuni osservatori, entra in crisi e non funziona, certo, più. E a questo punto scattano tutta una serie di situazioni. Scatta il secondo dato che Plus va segnalando ai suoi lettori da anni, perché questo bisogna dirlo, perché poi dicono la stampa queste cose non le ha mai raccontate prima. Non è vero, noi da anni abbiamo scritto che l'azione della Popolare di Vicenza aveva due caratteristiche: quella di non essere quotata e soprattutto quella di essere illiquida, cioè di avere difficoltà a essere trattata, ad essere scambiata, per cui chi l'aveva sapeva che aveva un valore che non era un valore di mercato, e nel momento in cui avesse voluto cercare di vendere quell'azione avrebbe potuto trovare delle difficoltà che si concretizzano già un anno e mezzo fa, perché entra in crisi il sistema di scambi interno, perché finisce l'era del fondo riacquisto azioni proprie, che viene criticato dalla Banca d'Italia e dalla BCE, e quindi le azioni cominciano a essere sempre più liquide, è sempre più difficile venderle, fino a che con la svalutazione, alcune settimane prima della svalutazione, con la decisione del Consiglio di amministrazione di svalutare il titolo, che poi dovrà essere e sarà approvata dall'Assemblea, l'azione diventa praticamente del tutto illiquida, non si riesce più a vendere. Chi aveva quelle azioni in mano, 62,5 euro, si sveglia una mattina vendole a 48 e perde il 23%. Insomma, sembra brutto dire ve l'avevo detto, ma in però questo caso l'avevamo scritto da anni, era stato e avevamo detto da anni che i multipli delle banche non quotate e i multipli patrimoniali in particolare, riflettevano valutazioni che erano più del doppio, talvolta in alcuni periodi anche il quadruplo, della media delle valutazioni del settore delle banche quotate. Allora, è il medesimo copione che peraltro si può scrivere anche per Veneto Banca. Seconda cosa, e qui coinvolgo il nostro Marco Ferrando, che ho evocato prima, e adesso il collegamento telefonico ha una ottima qualità. Marco, in tutto questo si è messo anche di mezzo il provvedimento del governo dello scorso febbraio, che chiede a questo gruppo di banche italiane di trasformarsi in SPA, quindi anche questa una circostanza che praticamente riporta i nodi al pettine, no? Potremmo fare anche questa sintesi brutale? Beh, sì, è corretto, perché il meccanismo è quello che ha spiegato benissimo prima Nicola. Indubbiamente la riforma, che non dimentichiamo è di gennaio ed è anche, se vogliamo, caduta un po' sulla testa, nel senso che da anni che se ne parlava, poi improvvisamente una sera dal Consiglio dei Ministri è uscito questo provvedimento che ha spiazzato un po', se vogliamo, sui tempi. E questo provvedimento, che obbliga entro un anno e mezzo, questo vuol dire entro la fine del 2016, le banche popolari con attivi superiori agli 8 miliardi, tra cui appunto Vicenza, Veneto e UbiBanca, poi le ricordiamo tutto esatto, il gruppo. E questo evidentemente è stato un ulteriore obbligo alla trasparenza, perché nel momento in cui tu devi cambiare la tua forma, evidentemente devi porti dei problemi che finora hai diciamo messo da parte, primo fra tutti evidentemente la quotazione. Non a caso sia Veneto che Vicenza, grandi popolari non quotate, questa è un'anomalia come diceva Nicola, hanno deciso di quotarsi, e questo evidentemente impone un confronto ben diverso con il mercato. Nel momento in cui ti quoti sei sottoposto a una serie di obblighi di comunicazione che da non quotato invece. Certo. Marco, prima di ridare la parola a Nicola, che ha altri punti da precisare, ti chiedo: l'inchiesta di cui si è saputo ieri e che porta Zonin ed altri esponenti di vertice appunto della banca nel mirino dei magistrati, e ai quali viene contestato il reato di agiotaggio e ostacolo all'autorità di vigilanza, ecco, per spiegarlo in termini semplici ai nostri ascoltatori, che accusa viene mossa ai vertici, appunto cosa vuol dire questa novità di ieri? Dunque, provo a essere chiaro. In sostanza, quello che sembra emergere dalle prime carte dell'inchiesta, appunto, che è partita qualche giorno fa, se ne parla da inizio settimana, è che per perpetuare il meccanismo di cui parlava prima Nicola, essenzialmente c'è stata molta leggerezza sui crediti, nel senso che pur di salvaguardare... Hai usato veramente un termine molto delicato e gentile. Un angelo. Esatto, sì. Ecco, perché qua c'è chi ci è andato un po' più sul pesante su queste modalità di erogazione del credito e richiesta contestuale di sottoscrizione di azioni della banca. 975 milioni di euro, quasi, direi che non sono una leggerezza. Quasi un miliardo, infatti. Il tema è proprio quello, nel senso che quello che emerge è che per anni sono concessi mutui, prestiti tendenzialmente a clienti non sempre solvibili, affidabili, quindi clienti di bassa qualità, in cambio dell'acquisto di azioni. E questo che di fatto generava due cose. Primo, evidentemente consentiva di tenere alto il valore del titolo, perché comunque questo titolo veniva acquistato. E secondo, ha riempito la banca di crediti di cattiva qualità. Esatto. Se posso permettermi, non è che sosteneva il valore del titolo, perché il titolo aveva sempre lo stesso valore che era definito in assemblea. Questo consentiva alla banca di centrare gli obiettivi di aumento di capitale e distribuire dei ricchi dividendi. Poi c'è un altro piccolo problema, come emerge oggi dalle carte, che sono raccontate benissimo dai colleghi nelle pagine di Finanza e Mercati del Sole 24 Ore e anche su altre testate. Questa situazione non veniva rappresentata in bilancio, e questo ovviamente sta nell'accusa di ostacolo alla vigilanza. È servita la BCE per tirar fuori questo piccolo dato di 975 milioni. Oltretutto, negli ultimi anni, visto che i clienti e i soci erano sempre meno disponibili a tirar fuori 62 euro per sostenere gli aumenti di capitale o acquistare obbligazioni convertibili, che cosa succede? Succede che entrano in campo entità terze allocate opportunamente in paesi che hanno scarsa trasparenza fiscale, che attraverso veicoli a volte societari, a volte di investimento come fondi comuni, acquistano grandi quote di questi aumenti di capitale. E poi, come racconta il Corriere della Sera di oggi, in un articolo che secondo me traccia perfettamente la situazione, salta fuori che ci sono patti di riacquisto di azioni della Popolare di Vicenza per 300 milioni di euro. Cioè, se tu sei scusate l'espressione, il correntista, il piccolo socio, il piccolo imprenditore che per ottenere un credito, per avere un prestito, deve andare allo sportello al quale viene detto: noi te lo diamo, però tu devi essere buono con noi. Devi essere buono con noi e non solo, magari chiedere anche un po' di più con quel surplus che sottoscrivi le azioni. Come abbiamo scritto su Plus anche parecchie volte, devi fare la tua parte nel nostro aumento di capitale o nella sottoscrizione di obbligazioni, poi però ti dicono ma le hai comprate, adesso il sistema è bloccato, non puoi rivenderle. Se invece sei qualcuno che è, come dire, un po' più uguale degli altri, per usare una metafora orwelliana, c'è un patto di riacquisto, ci sono 300 milioni di euro, il titolo diventa immediatamente liquido. Esatto. Chiarissimo. Allora, il tema è: noi abbiamo cercato di ricostruire in termini semplici questa vicenda intricata, peraltro alcuni ascoltatori dicono come al solito: ma la Consob che cosa faceva? Io credo che poi tutte le indagini siano andate avanti, adesso appunto esplodono per questa concomitanza di fattori che emerge un tema che i risparmiatori che sono rimasti coinvolti, correntisti, esatto, della vicenda, è il tema della vigilanza. Cioè siamo di fronte all'ennesima situazione, e va detto purtroppo a chiare lettere, nella quale intrecci di governance, situazioni di vicinanza, varie vicende hanno fatto in modo che per anni questa situazione, che era stata segnalata, sulla quale c'erano state interrogazioni parlamentari, sulla quale si erano mosse anche le associazioni dei consumatori e anche una certa stampa, perché ripeto, noi da anni abbiamo segnalato questa situazione su Plus 24, per anni questa situazione è rimasta sotto il tappeto. Ci sono state ispezioni della vigilanza di Banca d'Italia che hanno passato al pettine Veneto Banca, ad esempio, e hanno condannato i vertici di Veneto Banca per varie situazioni, compresa ad esempio la riprofilatura MiFID dei clienti per poter sottoscrivere azioni. A Vicenza queste cose non sono successe, ora esplode questo bubone che è venuto fuori grazie alla BCE. E c'è il tema dell'autorità di vigilanza, signore. Il tema dell'autorità di vigilanza è importante perché sia la Banca d'Italia che la Consob avevano il dovere di vigilare su questa situazione. Se lo abbiano fatto in maniera completa o ci siano stati dei meccanismi che si sono inceppati, lo verificheremo anche nell'inchiesta della magistratura. Però siamo di fronte all'ennesima situazione, dopo Monte dei Paschi di Siena, dopo altre vicende nelle quali, come dire, la polvere che viene accumulata sotto il tappeto salta fuori quando ormai la stalla è aperta, i buoi sono scappati. Guarda quanti proverbi ha messo insieme Nicola stamattina per raccontare tutto ciò. Devo dire che poi questa inconsapevolezza che abbiamo attribuito a molti correntisti, risparmiatori, azionisti, obbligazionisti, non è al 100%. Ci sono alcuni che ci stanno scrivendo a me, per esempio Daniel da Brescia, la Popolare di Vicenza, aveva proposto, quando avevamo chiesto di abbassare il tasso di un fido, avevano fatto questa proposta di sottoscrizione di azioni, ci avevano risposto appunto che ci avrebbero concesso questo abbassamento del fido diventando soci. Mi puzzava, non abbiamo accettato. Racconta di molte, esattamente. Scusate, ma una domanda: i mercati oggi non si fanno? È già l'ora? Se tu ti tieni l'orologio tutto per te, io da qua non lo vedo, cosa posso fare? Andiamo. Vedi che cosa mi dice, anche i mercati devo ricordarle. Andiamo. A tra poco. State ascoltando un programma offerto da Uliveto ti aiuta a digerire, Rocchetta ti depura. Uliveto e Rocchetta, acque della salute. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, naturalmente si è scatenato un grande dibattito tra i nostri ascoltatori che ci stanno ritwittando, stanno scrivendo molti messaggi, molte le telefonate in arrivo. Stiamo cercando, allora, chiaramente quello che sta accadendo nelle ultime ore alla Popolare di Vicenza, ne parlavamo anche con Nicoletta, microfoni spenti. Intanto la prima domanda che ci viene, ma insomma può capitare anche alla mia banca, sono situazioni particolari queste, naturalmente. Nicola, effettivamente a qualcuno il sospetto viene, no? Beh, è già capitato, se guardiamo al caso MPS, ad esempio alla scoperta dei derivati Alexandre Santorini qualche tempo fa, è chiaro che situazioni nelle quali, come dire, le regole vengono o si sostiene, perché poi queste sono le tesi dell'accusa, ricordiamoci che su questo c'è un'indagine in corso, bisogna aspettare anche che parlino, casomai si vada a un dibattimento, le difese. Nel caso in cui le regole fossero state aggirate, è chiaro che c'è poco da da temere. La situazione è quella, è già verificata una situazione del genere in altri istituti purtroppo in passato. Però io vorrei aggiungere due cose, perché poi purtroppo devo andare. Noi rimaniamo con Marco e poi abbiamo anche un legale di un'associazione dei consumatori. La prima cosa che vorrei ricordare, e l'abbiamo scritto ancora su Plus, è che purtroppo la svalutazione del 23% delle azioni della Vicenza, riteniamo, tutto ci fa temere, che non sarà l'ultima. Perché nonostante questa valutazione il titolo è valutato ancora a una media dei parametri diciamo di riferimento che è il doppio rispetto al settore delle banche quotate di analoghe dimensioni e di analoghe caratteristiche, e quindi visto che il titolo come sappiamo verrà portato sul mercato e che a fare il prezzo sarà il mercato, purtroppo qualcosa ci dice che possa scendere ancora. Con il processo di SPA, la ricerca anche di partner da parte di queste banche potrebbe anche ulteriormente condizionare, no? Ma questo dipende, perché il fatto che diventi un SPA significa che ci sarà la possibilità di rendere la banca entro determinati limiti che saranno definiti in sede statutaria contendibile, quindi questo potrebbe anche non essere un fattore necessariamente negativo. Il problema è che, ripeto, la valutazione rispetto ai parametri patrimoniali pone ancora questa banca nel campione di quelle più care rispetto all'andamento di quelle di mercato. La seconda cosa però che vorrei dire, vedo anche dei tweet che vengono lanciati adesso con gente che dice come può operare un istituto in queste condizioni. Signori, non bisogna, adesso cito un altro luogo comune, visto che stamattina hanno già inanellati parecchi, non bisogna buttare il bambino con l'acqua sporca. Allora, una situazione è quella che la magistratura sta cercando di indagare in questo periodo e di chiarire, sulla quale, ripeto, andranno poi fatte le dovute analisi e se ci sarà un dibattimento andranno sentite anche delle opinioni diverse. Un'altra è pensare che perché una banca ha delle situazioni di questo genere, domani mattina o dopodomani o fra due giorni la banca stessa chiuda i battenti e mandi tutti a casa. Non è così, non è questa la situazione della Popolare anche di Vicenza. Anche per tutelare proprio le persone e i clienti. Solamente un flash, Nicola, ti chiedo se questa settimana andrete su questo caso con Plus 24 con un occhio di riguardo ovviamente ad azionisti ed obbligazionisti, allora, che a questo punto si chiedono che cosa fare, intraprendere delle azioni legali, c'è chi lo ha fatto, adesso sentiremo una testimonianza riguardo al caso Veneto Banca, è già Alfredo è pronto ad intervenire telefonicamente, perché a questo punto la richiesta che le persone fanno è questa. Quello che posso dire è che ci sono alcune associazioni di consumatori che intendono lanciare su questa e su altre vicende delle class action. Sappiamo che la class action in Italia ha dei limiti molto stretti dal punto di vista giuridico, vedremo se passerà. Altri hanno mosso delle azioni giuridiche, leggi cause singole, anche qui ci sono a volte i requisiti, altre volte non ci sono. Esatto, quindi anche lì attenti. Bisogna poi fare molta attenzione a chi vende certezze dicendo recupereremo in tribunale quello che vi è stato sottratto, perché su questo si sta creando un mercato, in questa come in altre situazioni, tipo l'usura, tipo l'anatocismo, su cui c'è gente molto brava a farsi dare degli anticipi come studi legali per portare determinate situazioni in tribunale, salvo poi dire il tribunale non ci dà ragione. Prima di salutarti, Nicola, facciamo però anche un'altra raccomandazione. Se domani mattina avete bisogno di un fido, di un prestito, di un mutuo, andate in banca. La banca vi dice sì, io te lo concedo a patto che tu lo chieda un po' più alto e con quei soldini in più. L'abbiamo sempre sconsigliato. No, ma ricordiamolo, perché magari c'è qualcuno che invece pensa che gli stia facendo un favore la banca. In realtà non è così. Quello che posso dire è che sabato su Plus tratteremo un tema più ampio, dentro il quale si colloca anche questo, che è il tema delle nuove regole europee sul salvataggio degli istituti bancari e il cosiddetto bail-in. Ottimo, grazie Nicola, grazie, ci ritroviamo voi, presto. Ciao Nicola, mai abbiamo fatto anche una bella puntatina, ti ricordi? Col bail-in e con l'avvocato Vedana. Possiamo dire ai nostri ascoltatori di andare a sentirla nel nostro archivio. Volevo sentire prima di Alfredo, ciao, e Marco Ferrando rimane ancora con noi, Fabio da Verona. Fabio, velocemente, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, grazie intanto per avermi contattato. Vada. Guardi, io sono un azionista della Popolare di Verona e alla luce di quanto è emerso in questi giorni e anche di alcune riflessioni proprio sulla Popolare di Verona e delle nuove novità governative che purtroppo potrebbero gravare sui correntisti, mi riferisco alla nuova normativa approvata dal governo qualche giorno fa. Il bail-in che abbiamo appena citato, sì? Sì, e la mia riflessione è anche la Popolare di Verona potrebbe avere dei rischi, in che termini? La mia prima domanda, e la seconda, se le popolari in questo momento rischiano i correntisti delle popolari di più rispetto ad altri istituti più solidi nella faccenda dei 100.000 euro in conto corrente. Allora Fabio, speriamo di non aprire uno scenario di questo tipo, ci mancherebbe altro, anzi noi speriamo che come dire auspicabilmente le autorità di vigilanza, alla luce delle novità sulla Popolare di Vicenza, aumentino ulteriormente i controlli su tutto il resto di questo mondo. Marco Ferrando, direi però appunto di gettare un po' di acqua sul fuoco, no? Che dici rispetto alle preoccupazioni espresse dal nostro ascoltatore di Verona? Sì, assolutamente. Nel senso che le novità anzitutto entrano in vigore da gennaio, riguardano tutte le banche, quindi come dire, i rischi potenziali valgono per tutti. L'ascoltatore ci diceva essere azionista della Banca Popolare di Verona, che credo quindi equivalga al Banco Popolare, e quindi come dire, non abbiamo elementi particolari su una banca, quindi non c'è motivo di essere più preoccupati oggi rispetto a ieri. Quello che possiamo dire è che sicuramente con le nuove regole serve un surplus di autoresponsabilizzazione da parte di tutti, nel senso che dall'anno prossimo, in caso di dissesto finanziario, a pagare il conto non sarà più lo Stato, ma saranno gli interlocutori della banca. Questo vuol dire gli azionisti anzitutto, chi sottoscrive obbligazioni e chi ha depositi superiori ai 100.000 euro. Certo. Quindi, come dire, le condizioni non sono immediate e il depositante con 10.000 euro, 20.000 euro in ogni caso sarà protetto. È già coperto quindi, dal fondo interbancario peraltro, esatto, certo. Ma poi stiamo parlando veramente di situazioni estreme, di estrema razza, non è che abbiamo di fronte a noi casi difficili come ce ne sono anche in tutta Europa. No, ma è meglio saperle queste meglio cose saperlo. A noi la strada della consapevolezza è sempre quella che ci piace percorrere di ti più. Adoro, no? Lo sai, vedi? Che questo termine mi piace, no? Marco, detto questo, adesso intanto alla fine della fiera siamo di nuovo arrivati al traffico. Andiamo. Chiedo ad Alfredo un minutino di pazienza, ne ha avuta tanta, gliene chiedo un surplus. A tra poco. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Uliveto ti aiuta a digerire. Rocchetta ti depura. Uliveto e Rocchetta, acque della salute. Cuore e denari. Allora, dalla Popolare di Vicenza prima ci siamo riallacciati anche al caso di Veneto Banca, una situazione molto simile. Noi ne abbiamo parlato nei mesi passati, lo ricorderete, e avevamo in entrambe le puntate dedicato a questo argomento raccolto la testimonianza di un ascoltatore che era stato un po' il nostro fil rouge, molto rappresentativo anche di casi simili sul territorio nostro. Alfredo, un ascoltatore che aveva sottoscritto con Veneto Banca 900 azioni, 39,50 euro il prezzo di carico di questo investimento. Lo scorso febbraio ha chiesto il disinvestimento, gli hanno detto sì certo, compila tutti i moduli che te lo facciamo fare, e poi tutto bloccato fino a un consiglio di amministrazione di aprile, dove il prezzo di queste azioni, esattamente come è successo per la Popolare di Vicenza, è stato decurtato di circa il 23%, per cui 30.000 euro di azioni che non riesce a liquidare oggi il nostro Alfredo. Lui che cosa ha fatto? Oltre a denunciare questa storia a Radio 24 e ad altri canali, ha chiesto più volte di essere convocato dal direttore della filiale presso la quale questo investimento era stato fatto, convocato in luglio. Poi di Alfredo non abbiamo sentito più nulla, ma lui so che aveva intrapreso anche una dura azione legale. Alfredo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come è finita la sua storia? A che punto è? Allora, al di là del colesterolo che mi si è alzato nel frattempo, no, magari la pressione, la pressione, sono fattori di rischio che vengono dal Veneto probabilmente, che mi influenzano particolarmente, ma al di là delle battute bisogna essere anche un attimo distante, se no si fa sangue acido. Volevo velocemente e sinteticamente dire cosa era successo, cioè sei stata molto precisa nell'elencare i vari passaggi. Il passaggio ulteriore è stato che il 14 settembre, quindi lunedì scorso, abbiamo usufruito insieme al mio avvocato dell'organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati, dove proprio in funzione del fatto che c'era stata da parte di Veneto Banca la procedura per cui avevo compilato una serie di modulistica che ci permetteva di rientrare nel valore delle azioni che avevo a suo tempo sottoscritto, per volontà della stessa Veneto Banca, per volontà del direttore della filiale, per volontà dell'organismo di vigilanza della banca, per volontà del capo area. Ripeto, l'ho detto l'ultima volta in trasmissione, ma lo ripeto ancora, tutto questo è dimostrabile ed è documentabile dalle mail che sono passate tra certo. me e il direttore della banca. Cioè, questo voglio dire, nell'organismo di mediazione che era stato fissato per il 14 settembre per trovare una soluzione che loro stesso mi avevano permesso, non si è presentato nessuno, è stata presentata solamente una lettera. Quindi in questa lettera, guardi, l'offesa maggiore è che io, in rappresentanza di tutti questi utenti, no, e di tutti questi azionisti, è che è nella conclusione, dove mi viene detto che le censure mosse sono del tutto pretestuose e strumentali. Cioè, veramente, no, qui siamo a non voler verificare le situazioni, a non voler dare una risposta. Allora, molto sinteticamente io chiedo questo, lo chiedo, e lo chiedo anche ai responsabili di Veneto Banca, perché quelli che non ci sono più non ci sono più, ma quelli che ci sono adesso devono darci delle risposte. Le risposte sono queste: le mie azioni sono sequestrate da gennaio-febbraio dell'anno scorso. Vorrei sapere quando posso rientrare nelle mie azioni. È quello che vorrebbero sapere, Alfredo. Perfetto. Grazie a tutti gli altri ascoltatori che si trovano nella sua condizione. Peraltro, ricordando anche questo, naturalmente va detto che Alfredo, ne abbiamo parlato spesso, sì, a microfoni spenti, con lui ha la forza, tra virgolette, emotiva e anche economica di poter portare avanti la sua battaglia. Immaginate quante persone ci sono sul territorio che non hanno gli strumenti e che magari hanno solo un piccolo risparmio, tutto rappresentato solo da queste azioni bloccate presso queste banche, perché non hanno la capacità, una buona consulenza per fare tutta questa diversificazione, Nicoletta, che noi sempre suggeriamo. E però suggeriamo. Sai, se uno ha solo 20.000 euro di risparmio, ci sono tanti italiani che hanno un modestissimo gruzzo del tutto rispettabile e che chiaramente non lo possono disperdere in 40 banche perché sarebbe troppo oneroso, quindi vanno dalla loro banca storica e la fidano. Si fidano e hanno naturalmente solo quello, e queste persone non hanno nessun modo di tutelarsi, lo possono fare magari attraverso le associazioni dei consumatori. Avvocato Marco Gagliardi, legale del Movimento Consumatori, buongiorno anche a lei. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Vostro tavolo pure bello ricco, un dossier molto articolato. Voi ieri avete espresso una posizione molto dura con l'Unione Nazionale Consumatori e avete denunciato anche voi la Banca Popolare di Vicenza alla Consob a seguito delle segnalazioni numerosissime che stanno continuando a giungere ai vostri sportelli. Voi che tipo di azione state portando avanti? Esatto, perché sicuramente non basta la meritoria attività di informazione che voi fate in radio, sul giornale. Purtroppo in questi casi c'è un'attività persuasiva svolta in filiale dove si sta un rapporto di fiducia e quindi gli azionisti, come abbiamo visto, vengono indotti agli acquisti senza che venga rispettata quella che è una normativa specifica proprio nella vendita di questi titoli che sono definiti illiquidi proprio per il fatto che per definizione non hanno mercato. Quindi noi adesso abbiamo riscontrato diffuse violazioni della normativa e analizziamo caso per caso se sussistono i presupposti per avviare prima, diciamo, mediazioni, perché la mediazione è comunque obbligatoria nel caso si voglia fare una causa. Che è quella che Alfredo infatti ha portato avanti come prima iniziativa con il legale che lo sta seguendo. Esatto, poi altre iniziative. È difficile ipotizzare una class action, che viene giustamente utilizzato come termine in modo improprio anche spesso, perché si tratta di casi molto diversi tra di loro e la legge prevede la class action soltanto in casi identici. Uniformità, diciamo, di situazioni, sì. Esatto, è possibile verificare caso per caso e vedere se sussistono i presupposti. Certo. Senta, per esempio, per rispondere alla domanda che Alfredo faceva prima, io che cosa posso fare per rientrare del mio investimento? Per cercare, perché anche lì il tema della banca che dice lei sta facendo un'azione pretestuosa, chiaro che la banca prende tempo, no? Si tutela dal suo punto di vista, il mondo legale che la banca che segue, fa la banca. Esatto, evidentemente avrà suggerito anche di perdere un po' di tempo in attesa di capire cosa succederà ulteriormente anche in termini di, appunto, vigilanza, controlli della BCE e quanto altro. Ma secondo lei, appunto, per esempio, Alfredo e tutti gli Alfredi che ci ascoltano, Beh, il primo passo è sicuramente quello di acquisire la documentazione che deve essere firmata, che la banca deve aver conservato relativa all'investimento, a partire dal primo contratto, che è il cosiddetto contratto quadro di intermediazione, che viene firmato per poi eseguire successivi ordini, e quindi vedere formalmente se è stata rispettata la normativa, cosa che noi frequentemente vediamo che è stata. Poi c'è anche l'aspetto del, come dire, della persuasione un tantino forzata, del ricatto: tu fai il mutuo, sì, ok, te lo concedo, solo a patto che tu sottoscriva delle azioni. Anche questi sono atteggiamenti che andranno indagati in maniera opportuna. Vediamo se Federico dalla provincia di Verona in 3 secondi riesce a fare la sua domanda. Federico. Sì, buongiorno. Veloce. Niente, questo è il mio caso, che io avevo uno spread del 4,50, ho chiesto un rinegoziamento, però mi hanno detto che per avere un buon rinegoziamento dovevo acquisire queste azioni e nel gennaio, se non sbaglio, ho preso queste azioni e ora mi hanno fatto questo spread del 2,90, certo, diciamo. Però mi hanno chiesto che se un domani io le dovessi vendere, la banca potrebbe rivalersi su questo spread che mi ha fatto, certo, diciamo, ricatto sul ricatto. Federico, guardi, Gagliardi sta arricchendo il suo dossier, ci scriva nel dettaglio che lo mandiamo all'avvocato. Insomma, la sua situazione è molto simile a quella di tanti altri. Noi, allora, ci ritorneremo su questi casi sicuramente. Cuore Denari @radio24.it, grazie. Sportelli sempre aperti, scrivete, ci sentiamo domani. No, io no, non ci sarò. No, mannaggia te, ma ritorni venerdì, tanto non scappi. Buona giornata a tutti.